L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata dell'Altro Pianeta, che viene proprio a ridosso delle vacanze, no? Perché questi sono gli ultimi giorni di fatica, poi arriverà il Natale e un po' tutti, chi prima o chi poi, potremo goderci qualche giorno di vacanza. Ecco, quest'autunno 2014 è stato decisamente più caldo del solito, la neve è arrivata tardi, però insomma alla fine è arrivata e quindi molti andranno a sciare. Ecco, proprio di sci e di Alpi parliamo in questa prima parte dell'Altro Pianeta, e lo facciamo grazie a un lavoro che il professor Michele Freppaz, docente di pedologia all'Università di Torino, ha presentato al convegno nazionale di ricercatori ed esperti di suolo che è stato organizzato ad Alghero dal Dipartimento di Architettura e Urbanistica dell'Università di Sassari, in occasione della Giornata Mondiale del Suolo che, ricordiamo, l'abbiamo già detto più volte, ricorre il 5 dicembre di ogni anno e che quest'anno si è svolta per la prima volta sotto l'egida dell'ONU. Probabilmente anche in considerazione del fatto che il 2015 sarà l'anno internazionale del suolo, non solo l'anno di Expo, quindi, ma anche l'anno del suolo. Ebbene, veniamo alla ricerca di Freppaz sulle Alpi. Le Alpi, ma le località sciistiche in generale, anche quelle dell'Appennino, hanno probabilmente progetti di sviluppo che oggi non sono più tanto attuali, diciamo, perché sono stati formulati in tempi di diverse disponibilità economiche, oggi c'è la crisi, e purtroppo anche in condizioni climatiche diverse. Oggi, ad esempio, lo sappiamo tutti, non si scia più in alcune delle località che si potevano frequentare negli anni 70, gli impianti lì sono rimasti inutilizzati. Per continuare a sciare, con lo stile di oggi, che non è affatto lo stile di ieri, di sci, ebbene, le piste vengono spianate sempre più in alto, si arriva anche a 3.000 metri. Nel frattempo, poiché si è puntato il tutto e per tutto sul turismo invernale, molte località non di richiamo si sono spopolate, molte attività tradizionali sono state abbandonate e il risultato è che la montagna attraversa un periodo piuttosto difficile. Il professor Freppaz, con tutta la sua squadra, tutto questo l'ha studiato dal punto di vista del pedologo, quindi dello scienziato della Terra, e lo ha poi tradotto anche in alcuni manuali diretti a chi volesse tornare a lavorare in montagna come allevatore, come agricoltore, o anche chi ci lavora già perché gestisce delle piste da sci, ma vuole continuare a farlo al meglio nel massimo rispetto della montagna, della natura e del futuro della natura in montagna. Sentiamo cosa ci ha raccontato delle nostre Alpi, quindi, Michele Freppaz. Diciamo che siamo alle porte della stagione invernale, quest'anno inizierà per Natale, diciamo, e nella relazione era ben evidente come non sia più lo sci di una volta, diciamo, e l'avete visto bene studiando appunto sulle montagne quello che è l'impatto sul suolo delle montagne, anche di un'attività come lo sci, anche altre di cui poi parleremo, ma insomma cominciamo dallo sci. Com'era e com'è? Sì, diciamo che rispetto a quella che era la situazione degli impianti sciistici negli anni 70, nel boom dello sci alpino, la situazione è cambiata. Un tempo le piste da sci erano i pendii non alterati in nessun modo, in cui la neve veniva battuta e venivano utilizzati per la pratica dello sci alpino. Adesso invece gli interventi che si fanno sul suolo sono ben più significativi, cioè non sono più i versanti originari che vengono utilizzati, ma essi vengono in qualche modo trasformati per garantire delle superfici lisce, ampie, senza asperità, che quindi consentano la pratica dello sci in condizioni di sicurezza, ma anche facilitare le operazioni di gestione del manto nevoso durante l'inverno, quindi essenzialmente la battitura. Quindi diventa fondamentale una progettazione e un corretto restauro pedologico anche in ambienti inusuali, di alta quota, spesso al di sopra del limite degli alberi, in ambienti di tundra alpina, in cui i processi di formazione del suolo sono molto lenti e fortemente condizionati da un clima sicuramente estremo da questo punto di vista. Perché oggigiorno si portano addirittura le ruspe a 3.000 metri, no? Si ricordava nell'intervento, quindi non è si lavora a quote altissime, dove appunto la formazione del suolo ha tutti altri ritmi e altri... E ci sono altri impatti, diciamo, da valutare. Tra l'altro siete anche riusciti ad approntare un manuale per chi interviene a così alta quota, posto che valga ancora la pena di intervenire così in alto, però. Sì, onestamente gli stessi gestori dei comprensori sciistici hanno negli anni sviluppato una sensibilità a questi temi. Quindi è opportuno e doveroso che chi si occupa di suolo fornisca gli strumenti che riteniamo necessari e idonei per attenuare un impatto che è innegabile di questo genere di attività sui suoli in alta quota. E quindi la logica del manuale è proprio fornire delle linee guida, delle buone pratiche per garantire una qualità del suolo sufficiente a svolgere le sue molteplici funzioni, quindi non soltanto la funzione di ospitare un tracciato di pista da sci, ma se si può anche di renderlo un suolo idoneo a svolgere quelle che le sono le funzioni proprie anche in ambienti naturali. E si può ottenere questo risultato o si può solo, diciamo, attenuare l'intervento? Diciamo che si possono ottenere, se si seguono e se si ha una sensibilità al suolo, una conoscenza del suolo, si ottengono sicuramente dei buoni risultati. In ogni caso sarà sempre un ambiente in qualche modo simile, ma mai ritengo completamente scevro da effetti di questo genere di attività. Quindi sicuramente i margini ancora ulteriori di miglioramento ci sono, però fondamentalmente vi deve essere una sensibilità sviluppata a questo tema. E quindi adesso chi lavora sulle montagne, chi si occupa di sci e di sciatori, diciamo, ha questa sensibilità, comincia ad averla, anche perché forse le condizioni sono molto diverse da quelle di anni fa, ci sono tanti sciatori, ci sono tanti fattori in gioco, tanta economia che gira dietro a questi interventi. Sì, gli interessi economici sono molteplici, ovviamente non posso fare delle generalizzazioni, ma nello specifico nelle occasioni che ho avuto io personalmente di contatto con coloro che gestiscono, ho visto comunque una sensibilità, perché sempre più ci si sta rendendo conto che è un limite, sarebbe comunque un limite allo sviluppo quello di mal gestire queste situazioni, sia per un livello di immagine, quindi è nell'interesse comune quello di cercare di attenuare l'impatto di questo genere di attività. Se sullo sci c'è molta attenzione e la montagna invece è molto trascurata su altri aspetti, negli ultimi anni c'è stato molto abbandono dell'agricoltura, di pascoli, anche su quello avete molto ragionato, come possiamo condensare, diciamo, il vostro lavoro per gli ascoltatori? E anche questo è di nuovo un approccio di trasferimento di conoscenza, come dicevo prima, il fatto di voler trasferire a coloro che effettivamente operano sul territorio i frutti di attività di ricerca, spesso finanziata con fondi pubblici, quindi non è un merito ma un dovere dal mio punto di vista. L'agricoltura in montagna sta cambiando, è cambiata, ma quello che stiamo notando anche adesso è un ritorno di una certa fascia di persone all'utilizzo del suolo in agricoltura di montagna, coltivazione di piccoli frutti, recupero di vecchie varietà. Quindi, se vogliamo, è tornata a essere anche un po' di moda questo riavvicinamento alla terra. Non ci sono più le competenze che c'erano, quindi bisogna insegnarle. Esatto, sì. Persone giovani, laureati in gamba ce ne sono, le conoscenze vengono fornite anche nei percorsi universitari. Questi manuali che abbiamo prodotto possono affinare le conoscenze già acquisite, o per chi non ha seguito un percorso universitario magari fornire delle indicazioni utili per poter praticare questo uso del suolo in agricoltura nella maniera più appropriata possibile. C'era l'esempio, poi chiudiamo, appunto di chi, preparando un terreno per il pascolo, in quel caso poi dopo ci diceva, era proprio del tutto impreparato, nel senso che poi non cresceva quello che doveva crescere, ma perché non era stato preparato bene, insomma, quindi c'è anche un aspetto proprio banale di cominciare bene. Sì, sì, sicuramente, nel momento in cui si interviene sul suolo o lo si conosce, sennò il rischio di fare degli errori anche in buona fede è notevole, perché il sistema è un suolo molto complesso, va conosciuto in tutte le sue differenti sfaccettature per poter pianificare nel migliore modo degli interventi che comunque vanno a stravolgere un assetto naturale del suolo stesso. Per cui, insomma, proprio per le specificità della montagna, l'attenzione al suolo deve essere assolutamente prioritaria anche nel campo dell'agricoltura. Quindi, per chi vuole ricominciare in montagna, il consiglio è di non partire armati solo di buona volontà, ma di studiare. Non necessariamente i manuali di Freppaz, ma comunque di studiare. Come continua a studiare e anche insegnare Bruno Ceccanti, che è stato ricercatore del CNR, specializzato anche lui nel suolo, ma che continua la sua attività di divulgazione come associato al CNR, quindi gira l'Italia ma anche il mondo per far conoscere gli incredibili risultati di alcune ricerche condotte dal suo istituto. Tre di queste ricerche le ha presentate ad Alghero e noi le presentiamo a voi. Il problema grosso per i tempi con cui viviamo, a parte i problemi della crisi economica, e sono i suoli. Non abbiamo più suolo, e se lo abbiamo di pessima qualità. Allora, mi sono sentito responsabilizzato nel portare perlomeno 3 casi, per noi eclatanti, ma sufficientemente rappresentativi, di come va gestita la risorsa suolo, quando questo suolo non c'è o se c'è è molto degradato. Allora, ho presentato 3 casi tipici, i quali possono essere trasferiti in altre situazioni, perché ho preso un clima umido, freddo della Galizia, quindi nord ovest della Spagna, un clima arido, asciutto, secco, desertico, sud-est della Spagna, e un clima medio, moderato, che è il centro Toscana. E ho presentato, nel caso della Spagna, clima freddo, un suolo sterile di escavazione di una miniera a cielo aperto di carbone, che tutti gli addetti ai lavori sanno che è materiale da buttare a discarica, con dei costi notevoli di tipo economico e di tipo ecologico. Noi abbiamo deciso invece di recuperare in sito questo materiale, il che ci ha dato ragione poi negli anni, perché abbiamo visto che da questo materiale poi è scaturito un suolo che noi chiamiamo suolo tecnogenico o tecnosuolo, che però ha tutte le caratteristiche, le proprietà e le funzioni di un suolo naturale, perché siamo riusciti in 7 anni a riportare i valori perlomeno della biologia e della fisica di questo suolo, che ce lo faceva considerare solo un residuo, a dei livelli molto vicini a un suolo naturale campionato e analizzato in quella zona lì. Quindi questo è stato un successo. A costo zero, abbiamo solo dato dell'ottimo compost, quindi compost, per chi non è detto a lavori, è una sostanza organica, una sostanza umica fatta da vari materiali di scarto organici, recuperata mediante i processi di biossidazione e trasformata in sostanza umica, è un concime organico. Bene, solamente con questo e con del seme di pianta siamo riusciti in 7 anni a riportarlo quasi al 50% del recupero delle sue funzionalità ecologiche, e quindi c'è anche un valore in termini economici, perché non abbiamo dovuto asportare a discarica questo suolo, spendere denaro in mezzi e macchinari pesanti e soprattutto impegnare la comunità e la collettività nelle spese inutili. Compost, per intendersi, è anche quello che si può ricavare dalla frazione umida dei nostri rifiuti, quindi insomma nelle città in cui già si raccoglie. E quindi è un altro problema che in questo caso troverebbe una soluzione adeguata, una soluzione ecologica. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio, stiamo parlando di recupero di suoli compromessi dall'uomo, dalle sue attività, ma anche dal clima. E stiamo parlando con Bruno Ceccanti, ricercatore del CNR, ora in pensione ma sempre in attività, per divulgare gli straordinari risultati ottenuti con il suo gruppo di lavoro negli anni scorsi. Abbiamo detto nella prima parte di come il compost, che poi è quello che si ricava dai rifiuti organici delle città, abbia salvato una ex miniera di carbone a cielo aperto in Spagna. Ora veniamo all'Italia con degli studi condotti in Toscana. Poi arriveremo anche alle dolenti note, però. Se abbiamo la tecnologia che dà i risultati, la domanda che abbiamo fatto a Ceccanti è perché non l'applichiamo? E su questo Ceccanti ha avuto una risposta molto precisa, circostanziata, secca e anche preoccupante. Utilizzando acqua reflua, solo acqua reflua superficiale, non quella di falda, che è una riserva geologica da preservare a tutti i costi, quasi più del petrolio. Perché in alcune aree d'Italia in particolare. In particolare, soprattutto nelle zone di scarsità idrica e nelle zone dove c'è acqua salina sulle coste. In questo caso siamo sulla costa della Toscana, abbiamo acqua di pessima qualità e salina, che pur avendo queste caratteristiche pessime, però è acqua geologica, dobbiamo tenerla in sito underground, sottosuolo, per non creare anche scompensi di tipo meccanico proprio della crosta di suolo in quella zona lì, e soprattutto di non spendere e sciupare una risorsa che potrebbe domani, in caso di bisogno e di emergenza, esserci utile. Allora noi abbiamo provveduto a far questo, siccome in gioco c'è il mantenimento no di una cultura ad alto reddito, una monocultura, quindi già questo è impattante per il terreno, perché fare una monocultura di meloni, che ha alto valore economico per la zona, però rischia di diventare insostenibile perché c'è troppa spesa, l'acqua di falda, il concime, che il concime va a aggravare anche le qualità pessime del suolo che già ha come salinità, eccetera. Noi si è detto, si risolve la situazione in un modo solo, alleggerendo la pressione sul suolo e sulla acqua di falda. Abbiamo utilizzato un campeggio lì vicino, abbiamo utilizzato acqua reflua parzialmente depurata, quindi vuol dire non portata a compimento come dicono i protocolli di depurazione, ma abbiamo tolto parte del carico organico, però lasciando, diciamo, i nutrienti disciolti in questa, quindi azoto fosforo per intenderci. Quindi, diciamo, igienizzata, lei diceva prima. E poi igienizzata perché questo è un obbligo, chiaramente, perché anche non posso. Si usa per un uso alimentare. Per un uso alimentare, anche se la cultura, ci tengo a dire, sperimentali sono state distrutte poi, chiaramente, questo per obbligo di legge, va bene. Questo è in particolare. Però in quel momento noi si è visto proprio la possibilità di risolvere il problema soprattutto in termini economici, perché si utilizzava acqua reflua che avrebbe avuto un costo portarla a compimento nella depurazione, noi si fermava la depurazione a metà, togliendo il carico organico disperso, però l'acqua era limpida e conteneva quei nutrienti che poi noi saremmo stati costretti a aggiungere dopo, invece, se si usasse un'acqua di irrigazione naturale come quella di Falda, mentre lì c'erano già presenti. In più, lo sappiamo sulla base delle nostre ricerche, noi abbiamo aggiunto della sostanza umica estratta da quel compost di cui si parlava prima, però fatto da fango biologico, che poi dopo le introdurrò. Allora, questa sostanza umica, che ci ha dato dei risultati eccezionali, ma l'abbiamo fatto degli studi a livello anche internazionali, è capace di mitigare la salinità dell'acqua, di migliorare le caratteristiche del terreno, perché noi la diamo goccia a goccia, quindi non sprechiamo nemmeno acqua. Allora, risultato finale, rispetto a un sistema di irrigazione in quell'area convenzionale con acqua di falda e sostanze chimiche aggiunte, noi risparmiamo il 75% dell'acqua di falda, ne utilizziamo solo un 25%, e un 50% di fertilizzante, il che vuol dire che alleggeriamo molto anche l'ambiente di aggiunta ulteriori sostanze chimiche a una cultura di meloni che poi vanno in tavola. E quindi, se diamo delle sostanze, cioè meno chimica diamo, è più accettabile poi il prodotto alimentare. Questo, diciamo, questo bel esperimento qua, che fa parte di un progetto MIFER europeo già del 94, quindi molto vecchio, però già certificato e accettato a livello nel contesto scientifico internazionale, questo sistema, questa linea di chiudere i cicli in superficie e non scavare l'acqua di falda, l'idea vincente è stata proprio quella di utilizzare materiali di scarto, l'acqua reflua, gliel'ho già detto, parzialmente depurata, le sostanze umiche l'ho estratte da un compost fatto di fango biologico, ed ecco la chiusura del ciclo di depurazione. Lei pensi, la depurazione ha due effluenti: acqua depurata, si dice, però a norma, ma sempre carica di inquinante, e fango biologico, che sono quei microrganismi che hanno mangiato tutto lo sporco dell'acqua, sono ingrassati, sono aumentati di volume e dobbiamo smaltirli, se no l'impianto non funzionerebbe. Questo fango biologico ha dei problemi molto grossi, è maleodorante, è putrescibile, deve essere trasportato da luogo a liquami, si deve passare in una zona turistica, quindi in mezzo alla città, è Piombino, Follonica, Punta Ala, i sindaci non vogliono, quindi ha dei problemi proprio anche sociali, oltre che ambientali e economici notevoli. Quindi dobbiamo ridurre anche questo. Abbiamo ridotto anche questo perché noi l'abbiamo utilizzato, perché noi questo fango lo teniamo nell'impianto, ci mettiamo le piante sopra e lombrichi, lo trasformiamo in compost. Un volume, per esempio un'altezza di fango di 10 metri, in 5-6 anni si riduce a 40 centimetri. Ha idea di cosa vuol dire portare via 10 metri di roba o portare via 40 centimetri? Ma noi non portiamo via nemmeno quei 40 centimetri, perché lo utilizziamo per estrarre queste sostanze umiche. Il residuo dell'estrazione lo utilizziamo come fertilizzante organico per culture in campo aperto, cerealicole, grano, perché questo è tutta norma di legge, è un composto biologico. Quindi chiudiamo il ciclo in tutti i sensi, sia economico sia anche ecologico. Però scusi, lei mi diceva che è del 94, che ha tutti questi vantaggi, e come mai non lo stiamo facendo? Perché siamo in Europa, non dico siamo in Italia, sarebbe ingiusto, siamo in Europa. La Comunità Economica Europea spende fiumi di denaro per fare queste ricerche, non ha mai poi un riscontro a consuntivo. Purtroppo, io l'ho sempre detto nelle sedi, sono stato anche nei centri europei di valutazione dei progetti europei, e questo l'ho sempre detto, dovete obbligarci a dare un riscontro, non solo in termini scientifici, ma anche in termini operativi, strategici, sociali e economici. E le nostre politiche devono essere poi riorientate, riindirizzate a tenere in conto nella loro programmazione di questi risultati, altrimenti ci parliamo a distanza da una montagna all'altra e non ci intendiamo. Resta questo gap, quindi la scienza ci è arrivata, se fate le prove, se fate i riscontri, eccetera, eccetera, ma non si applica. Dico un'altra cosa, per questo è che ora mi hanno fatto un contratto in cima come VIP, cioè come high level expert, per andare a insegnare queste cose ai loro studenti, ai loro dottorandi, ai loro dottorati. In Cina. In Cina. Sono già 6 anni che vado in Cina, continuo ad andare in Cina, perché laggiù ho trovato una ricettività molto maggiore, cioè lì vogliono sapere, vogliono conoscenza, qua che abbiamo conoscenza non ci importa niente di aggiornarci, capito? Questo è venuto fuori anche nell'assemblea di stamattina, nel dibattito di questa mattina, quando si parlava di dare valore economico al suolo solo in termini di costruzione, costi di costruzione, è ingiusto. Il suolo è un elemento strutturale di questo pianeta dove c'è la massima riserva di biodiversità, è un elemento strutturale che controlla tutti i cicli biogeochimici in natura e che modera il clima, oltre a darci fibre, minerali, cibo e benessere e estetica anche. E poi è conservatore di tutti i nostri reperti archeologici, cosa che anche qui dobbiamo fare chiarezza. Dobbiamo utilizzare il suolo anche come fonte di informazione di quello che è stato il passato. Arrivare a capire che tipo di agricoltura c'era nel passato. Quindi si può scavare il suolo e studiare non da un punto di vista chimico di fertilizzazione o di produzione agraria, ma dal punto di vista di informazione culturale, soprattutto per quanto riguarda i reperti archeologici. I livelli di visitazione delle antiche popolazioni sono ben presenti in questo suolo quando noi apriamo l'orizzonte di questo suolo in verticale. E dal tipo di agricoltura di allora viene fuori il tipo di organizzazione sociale di allora e possiamo fare anche delle previsioni per quello che sarà il clima futuro e l'organizzazione sociale futura. Ne abbiamo bisogno di riorganizzarci. L'ultimo esempio è una cosa veramente, diciamo, un mistero della scienza. Abbiamo deciso nel 92 di recuperare un suolo desertico nella provincia di Murcia, sud-est della Spagna, quindi clima arido, veramente in zona quasi predesertico, però noi con i nostri parametri di valutazione abbiamo visto che il suolo respirava ancora, nel senso, l'ho detto stamattina, c'era ancora quello che noi riteniamo l'ultima barriera contro la irreversibile degenerazione del suolo fino a sabbia, stelle e deserto. C'era ancora questo complesso umoenzimatico, prima si parlava di sostanza. Naturalmente è arrivato a quella condizione. Sì. Lo manteneva ancora perché questo nucleo noi lo stiamo studiando da anni, merito mio e del mio gruppo di Pisa, soprattutto siamo rimasti quasi soli, ma abbiamo pubblicato tantissima letteratura su questo e validata e accettata nel contesto internazionale, ce lo riconoscono tutti. Quindi questo nucleo stabile di sostanza umica che contiene enzimi, uguale a quelli che noi ci misuriamo nel sangue o negli animali, enzimi funzionanti che resistono anche a alte temperature, anche oltre 100 gradi, questo vuol dire che siamo di fronte a qualcosa di miracoloso, se vogliamo definirlo così, che abbiamo visto però servire a far sì che il suolo non morisse completamente. Cioè, se io ora intervengo dall'esterno con una flebo di sostanza umica o qualcosa di una pianta particolare o gli do umidità, il suolo comincia a ribattere, a ripristinare il suo ciclo vitale, si autoalimenta e ritorna in vita. Infatti abbiamo deciso a quel tempo là, era l'unico materiale che avevamo a disposizione per legge, perché gli altri materiali non potevano essere utilizzati, scarti di verdura, orto, frutta, che in Murcia abbonda, l'abbiamo dati a varie tonnellate per ettaro, diciamo così, da 0 a 2 tonnellate per ettaro, abbiamo visto che a 200 tonnellate per ettaro, abbiamo visto che danno non ce n'era, abbiamo aspettato serenamente, abbiamo fatto le analisi poi anni dopo, 3 anni dopo, abbiamo visto che il suolo non solo ha mantenuto la sua fertilità, ma è migliorato molto, ricercando proprio quei fattori che noi riteniamo utili, diciamo così, per valutare il livello di vita di un suolo, il livello di risposta di un suolo. Questi sistemi biologici o questi sistemi umoenzimatici che noi stiamo studiando, allora si è visto che dopo 3 anni è tornato in vita. Ce ne eravamo dimenticati quando, nell'occasione di un progetto europeo, Index, là dove l'Europa ci aveva incaricato di cercare dei biomarcatori proprio di risposta vitale di un suolo, ci è venuto in mente di andare a rivedere questo che doveva essere un cadavere, invece non era un cadavere, e abbiamo visto sorprendentemente, rianalizzando con strumenti nuovi, capirà, dopo 15 anni, si è visto che non solo rispondeva, ma rispondeva nello stesso modo di come rispondeva 15-20 anni fa. Allora ci siamo sorpresi e abbiamo detto, abbiamo ridato vita a un suolo con una mossa quasi simbolica, addirittura proprio un... E questo suolo si è autofertilizzato perché è stato abbandonato lì, sempre nelle stesse condizioni di drammaticità climatica, perché piovono meno di 400 mm l'anno, cosa che qui ne piovono 400 in un'ora, per dire, no? Alcune volte in Italia. In queste situazioni, proprio grazie al sistema vegetativo che avevamo indotto con l'aggiunta di questa frutta fresca, e devo dire anche non è solo perché gli abbiamo dato la frutta, gli abbiamo dato zuccheri, sostanze organiche, è veramente una flebo, e acqua, perché la frutta l'80-90% è acqua. In quel momento l'acqua è servita a rigenerare, a risvegliare la biomassa microbica autoctona, addormentata, paralizzata e mummificata in questo terreno sterile, si è risvegliata talmente che ha permesso l'instaurarsi di una copertura vegetale, e questo ha fatto il gioco. La radice, la fotosintesi, la radice libera sostanze solubili, i microorganismi le mangiano. Allora, quando si comincia a creare questo ciclo di nutrienti nel terreno, arrivano anche gli organismi superiori, arrivano i baccherozzoli, lombrichi, e si forma veramente un terreno areato e permeato. A quel punto è capace di trattenere quella poca acqua che piove e il gioco va da sé. La legge ce lo permette, ce lo deve permettere. Lasciamo perdere, che se adesso non lo permette, non lo permetterebbe mai dare sostanza organica fresca, lo sa, non si può portare nemmeno a discarica, non si può dare nemmeno su terreni adibiti a scopi alimentari, diciamo. Però quando si vuole mantenere in vita un suolo, bisogna a un certo punto fare un compromesso con noi stessi. La daremo interrata, però dobbiamo darla, non essendo tossica, non essendo un veleno, è solo acqua e zucchero e carbonio solubile, diamoglielo, e i miracoli, il miracolo veramente può avvenire. Grazie a Bruno Ceccanti per questo tempo che ci ha dedicato, veramente tantissimo tempo che ci ha dedicato, del resto questa è la sua missione adesso, la divulgazione. L'appuntamento con L'altro pianeta è per la prossima settimana, alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon ascolto.